Focus Economia. Le 17:07 minuti in questo momento, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una giornata abbastanza incerta sui mercati europei, fatta eccezione per Milano che ha preso una via di deciso ribasso, il FTSE All Share cede lo 0,88%, quasi un punto percentuale sul FTSE MIB, un andamento dovuto anche ad una serie di semestrali che non sono piaciute al mercato, tra cui quella di Telecom Italia che oggi ha lasciato sul terreno il 4,5%, sta lasciando sul terreno il 4,5%, mentre New York perde mezzo punto percentuale sul Dow Jones e un punto percentuale sul Nasdaq e, come si diceva, l'Europa incerta, ci sono lievi ribassi sia su Parigi che su Francoforte, così come su Londra. Di cosa parleremo oggi? Torneremo a toccare il tema della cedolare secca perché, come sapete, ieri è stato approvato definitivamente il decreto legislativo da parte del governo e la soglia scende quindi al 20%, dal 25% che si era immaginato inizialmente, che circolava nelle bozze di provvedimento. Ne parleremo di questo con il presidente di Confedilizia e sentiremo anche che cosa hanno da dire gli inquilini. Parleremo sentiremo la voce di Jean-Claude Trichet, che oggi ha dato idea che la crescita europea sia ben più decisa forse di quanto non ci si aspettasse. Sentiremo anche la voce di Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, che parla appunto dei risultati della lotta all'evasione, e poi toccheremo il tema di Tirrenia. Naturalmente, come avrete letto, è fallita nei fatti la gara per la privatizzazione di Tirrenia. È una vicenda un po' paradossale che inizia ad assomigliare sempre di più a quella all'Italia. Iniziamo dalle notizie in breve di questa giornata. Partiamo dalle materie prime e dal petrolio, che ha aperto in calo a New York ad $81,86 al barile, un meno 0,7%. E sempre a proposito di materie prime, naturalmente continua ad esserci grande attenzione per il grano. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e c'è il problema naturalmente degli incendi che stanno toccando la Russia e poi problemi di siccità in altri grandi paesi produttori come l'Ucraina e il Kazakistan. E comunque oggi il future sul grano a dicembre vola del 7,9%. Il rialzo è di 60 centesimi a bushel, che è l'unità di misura, diciamo così, del grano. Il contratto ha guadagnato il 15% negli ultimi due giorni. Si diceva del petrolio oggi in calo, mentre invece sul fronte della benzina, dei carburanti, arrivano i rialzi. Oggi iniziano appunto a riscontrarsi sulla rete i primi riflessi del forte rialzo dei prezzi internazionali registrato lunedì. Esso, Kuwait e Tamoil hanno messo mano ai listini. I prezzi medi della verde tornano a superare 1,4 euro al litro e quelli del gasolio 1,25. Sul fronte dell'economia internazionale ci sono un paio di cose interessanti. Uno è il motivo per il quale probabilmente New York in questo momento sta scendendo, ossia i sussidi di disoccupazione dagli Stati Uniti. Le richieste la scorsa settimana sono salite a sorpresa di 19.000 unità, il massimo dallo scorso aprile. E poi dalla Cina. L'autorità che vigila sulle banche cinesi ha chiesto agli istituti di credito di condurre un nuovo ciclo di stress test sui loro bilanci, molto diversi dagli stress test che abbiamo effettuato in Europa, perché le autorità cinesi chiedono alle banche di verificare l'impatto di un crollo dei prezzi immobiliari fino al 60%, fatto che ravviva i timori di una bolla immobiliare pronta ad esplodere nel mercato cinese, secondo gli analisti. La Banca Centrale Europea si diceva che più avanti sentiremo la voce di Jean-Claude Trichet, comunque ha lasciato i tassi invariati all'1%, esattamente come era atteso dai mercati. Trichet dice tassi adeguati e la ripresa è meglio del previsto. E addirittura dice la crescita nel secondo trimestre nell'Europa a 16 è eccezionali, risultati davvero eccezionali e molto buoni, il trimestre sarà migliore di quanto previsto. Esclude tra l'altro Trichet una nuova recessione, la definisce del tutto esclusa, e poi parla appunto degli stress test sulle banche. La BCE li accoglie con favore, una verifica rigorosa, completa, e i risultati confermano la tenuta dei sistemi bancari europei e dell'area euro nei confronti di gravi shock finanziari ed economici. Sempre a proposito di economia europea, tra l'altro le autorità greche, si legge in una nota congiunta di Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario diffusa a Bruxelles al termine della missione condotta da Atene, le autorità greche hanno applicato con forza il programma di risanamento economico e avviato importanti riforme, ma restano ancora ad affrontare importanti sfide e rischi. La Grecia, si legge nella nota, ha compiuto progressi notevoli sulle riforme strutturali. Per quanto riguarda l'Italia sono stati diffusi dei dati interessanti dal centro studi della CNA, secondo il quale la bolletta elettrica pagata dalle imprese italiane nel 2009 è più salata del 32% rispetto a quella degli altri paesi europei. La vicenda Tirrenia ve lo abbiamo già raccontato anche nei nostri giornali radio, poi ci torneremo tra poco. Ieri Fintecna di fatto ha annullato la gara di privatizzazione perché Mediterranea Holding, che era l'unica rimasta in gara dalle prime 16 che si erano presentate, Mediterranea Holding che ha come azionista principale la regione Sicilia, non è arrivata, per così dire, in tempo per la sottoscrizione del contratto. Dice la Regione Sicilia, tra l'altro, che l'annullamento della gara è incomprensibile. Per quanto riguarda il governo, viene assicurata la continuità operativa. La vicenda del piano esuberi di Unicredit, ve ne abbiamo parlato ieri, il piano stima complessivamente 7.200 esuberi, il piano varato in vista della nascita della banca unica, e però resta fermo il numero che è stato fornito ieri, ossia 4.700, perché 2.500 verranno riassorbiti attraverso diversi strumenti, tra cui la mobilità mansionistica e o territoriale. Piano che consentirà di compensare parzialmente, dice l'azienda, le crescite inerziali di costo attese per il 2013, generando un risparmio atteso di circa 422 milioni di euro. Tra l'altro il vicepresidente di Unicredit Fabrizio Palenzona ha una domanda su possibili ulteriori esuberi, dice non siamo mica matti. Sindacati chiariscono che il braccio di ferro è su 4.100 dipendenti, ma questo in parte era già stato chiarito dalla stessa Unicredit, perché ce ne sono 600 che fanno parte del piano di fusione con Capitali, quindi erano in parte già previsti. Si parla di 1.400 dipendenti che hanno i requisiti per la pensione. E tocchiamo il tema dell'evasione fiscale. Interessante la storia di quello che possiamo definire il re degli evasori, contenuto nella lista segreta del Liechtenstein, consegnata ai servizi segreti tedeschi dalla talpa Heinrich Kaiber. Ereditiere di una famiglia industriale, l'uomo avrebbe occultato al fisco, attenzione, 450 milioni di euro. Avete sentito bene, una cifra che fa sembrare un dilettante il maggiore evasore di nazionalità tedesca finora noto, fermo a quota 35 milioni. Sarebbe italiano questo evasore da 450 milioni di euro. E a proposito di lotta all'evasione, i dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate, più 9% gli incassi nella lotta all'evasione nei primi 7 mesi del 2010, pari a 4,9 miliardi di euro, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Dice ancora puntiamo oltre 8 miliardi di incassi nel 2010. Sentiamolo al microfono di Savino Gallo. Noi presentiamo questi risultati che sono estremamente confortanti, abbiamo raggiunto quasi 5 miliardi di incassi da lotta all'evasione nei primi 7 mesi dell'anno, l'anno scorso eravamo a 4 miliardi e mezzo, se ci ricordiamo l'anno scorso era un anno record perché alla fine incassammo circa 9 miliardi e quindi stiamo superando quel record. Vogliamo ribattere il record dell'anno scorso di 9 miliardi. Ma i mezzi sono vari, innanzitutto devo ringraziare per l'impegno e la professionalità delle nostre risorse, a questo va affiancata la riorganizzazione dell'agenzia che ha dato la possibilità di migliorare quindi l'efficienza e l'efficacia della nostra azione, ma importantissimi anche tutti gli strumenti che Parlamento e Governo ci hanno dato, strumenti normativi, che hanno rafforzato la nostra capacità di incidere sulla lotta all'evasione. L'evasione purtroppo in Italia è molto diffusa, non c'è un specifico settore, una specifica situazione da affrontare. Abbiamo degli strumenti molto efficaci un po' su tutti i fronti, sull'evasione internazionale con l'inversione dell'onere della prova, l'introduzione del redditometro che è estremamente importante per l'evasione delle persone fisiche e per semplificare la vita dei nostri nel ricercare gli evasori, tutte le norme che sono state introdotte sul, per esempio, le compensazioni indebite, sulle aziende apri e chiudi, sulle aziende prendimento in perdita e così via, sono tutte varie facce dello stesso fenomeno di evasione, bisogna colpirle un po' tutte. Ci vuole quel cambiamento di cultura che sta avvenendo perché intorno alla lotta all'evasione ci sia il consenso sociale e ci sembra di capire che ci si sta muovendo in questo senso. E poi, dice Befera, 151.000 controlli nei primi 7 mesi del 2010 e poi tocca anche il tema della cedolare secca. Dice, per noi va benissimo, forse ci semplifica ancora di più la vita, ma non ci comporta modifiche dal punto di vista della gestione. Ed è proprio questo il primo tema della giornata, ossia appunto la cedolare secca. Vedo che già arriva qualche messaggio, tra cui quello di Nicola che da Venezia ci scrive: cedolare secca, sempre più soldi a chi ne ha già, un'altra tassa iniqua. Questo dice Nicola, ne chiederemo tra poco al nostro ospite. Però per rispondere invece alla domanda di chi chiede a proposito di questo famoso 20%, insomma, c'è stata una sorta di giallo, per fare il punto definitivo abbiamo preparato questa scheda. Non più il 25% inizialmente ipotizzato o il 23/22% circolati in un secondo momento. Alla fine, sulla casella della cedolare è uscito il 20. Questa è l'aliquota che, salvo nuove sorprese, si potrà applicare dal 2011 sui canoni di locazione, con maggiore vantaggio per molti proprietari, ma anche con qualche problema in più per le casse del tesoro. Chi affitta una casa potrà infatti scegliere se mantenere il vecchio regime, in cui il canone percepito finisce nel reddito complessivo soggetto alle aliquote progressive IRPEF, oppure optare per la tassazione fissa al 20%. La linea di confine è a 15.000 euro. Per chi ha un reddito complessivo inferiore, risulta più conveniente il regime attuale. Al di sopra di tale cifra è invece preferibile la cedolare, con un vantaggio che cresce all'aumentare del reddito, visto il venir meno della progressività del prelievo. Facciamo un paio di esempi. Un proprietario con un reddito annuo di 63.000 euro che affitta un appartamento a 12.000 euro l'anno paga oggi sul canone 4.280 euro di tasse. Con il nuovo regime, il prelievo dovrebbe ridursi di ben il 44% a 2.400 euro. Nell'ipotesi di un proprietario con un reddito di 22.000 euro che affitta un piccolo appartamento per 4.800 euro l'anno, lo sconto si riduce al 16%. Il prelievo scenderebbe infatti dagli attuali 1.142 euro a 960. L'aliquota al 20% sarà unica, quindi, senza distinzioni per i canoni concordati che oggi godono di un regime fiscale più favorevole. Per il Tesoro, la nuova forma di tassazione dovrebbe comportare una diminuzione del gettito di quasi 2 miliardi rispetto ai 7,5 miliardi incassati annualmente con il regime attuale. Un ammanco che si cercherà di colmare con l'emersione del sommerso favorita dal regime fiscale più vantaggioso e dall'inasprimento di sanzioni e controlli sugli affitti in nero. Saluto Corrado Sforza Fogliani, che è presidente di Confedilizia, associazione che raggruppa, la principale associazione che raggruppa i proprietari di immobili. Buonasera, presidente. Buonasera. Allora, i conti le tornano in questa scheda che abbiamo fatto, innanzitutto perché so che avete anche delle stime vostre, questo da una parte, e poi la domanda che alla fine ci poneva l'ascoltatore, e che è la più grossa obiezione che viene fatta alla cedolare secca, ossia che alla fin fine avvantaggi chi ha il reddito più alto e non chi ha il reddito più basso. Allora, una prima valutazione su questi due fronti, insomma, qualche proiezione da una parte e dall'altra parte, insomma, capire se quel che si dice è vero. Ma abbiamo diffuso anche noi una tabella che è pubblicata anche sul nostro sito nella sua versione integrale, e concordiamo con quanto avete detto nella scheda. In effetti c'è una disparità fra redditi e redditi, e soprattutto sono penalizzati i contratti agevolati pur dopo i miglioramenti che siamo riusciti ad ottenere, illustrando la posizione ieri mattina ai singoli ministri, dopo la versione iniziale che era circolata. I miglioramenti sono appunto l'abbattimento dal 25 al 20%. Ecco, questo appunto per quanto riguarda le vostre proiezioni. Ora, io le farei sentire immediatamente un'obiezione che arriva dalla vostra controparte, ossia il SUNIA, che è il principale sindacato degli inquilini. Bene, sentiamo che cosa ci ha detto stamattina, intervenuto a bianco e nero, Daniele Barbieri, che ne è il segretario nazionale. Ecco, sentiamo la prima valutazione sulla cedolare. Qui in Italia non esiste una politica della casa, la casa viene vista in termini fiscali, la questione della cedolare secca ne è un esempio. Questa operazione di cedolare secca può costare dai 900 milioni al miliardo e mezzo di euro, a seconda di come viene applicata, e per questo tipo di cedolare le risorse si sono trovate, non si capisce perché non si riescono a trovare per gli inquilini. La scelta sulla cedolare non è una scelta per contenere il livello degli affitti, perché si fa uno sconto generalizzato ai proprietari senza richiedere in cambio, tra virgolette, un abbassamento del livello degli affitti, che oggi rappresenta l'emergenza più rilevante sul fronte abitativo. Ecco, questa è la prima obiezione che le posso girare da parte degli inquilini. Insomma, dicono, va bene, ok, è benefico, e poi verremo anche all'altro tema, perché è chiaramente questo un provvedimento che non ha il solo scopo di abbassare le tasse per i proprietari di case, ma anche spingere evidentemente all'emersione degli affitti in nero, e questo è assolutamente evidente. Però le giro questa prima obiezione, insomma, dice Barbieri, ok, di questo beneficiano i proprietari, ma c'è un altro problema, che è quello del costo degli affitti, sul quale sostanzialmente non si incide. Ma guardi, il livello degli affitti non dipende dalle tasse erariali, il livello degli affitti dipende dalla tassa locale, dall'ICI, che è quella che grava maggiormente sui redditi della proprietà edilizia. Sta di fatto che oggi nessuno più affitta per trarne un reddito. Una volta si affittava per farsi la pensione, per quando si sarebbe stati più anziani. Oggigiorno non lo fa più nessuno, e questa è la dimostrazione più bella che la locazione oggi non ha reddito zero, come del resto ha riconosciuto tempo fa anche lo stesso senatore Morando del Partito Democratico. Quindi non è questione... Beh, addirittura reddito zero, presidente. Reddito zero, considerando che tra il 50 e il 60% del canone se ne va immediatamente in tassazione locale ed erariale a seconda della aliquota di ICI che si applica nel comune nel quale l'immobile è situato. Se poi lei ci aggiunge le spese di amministrazione, le spese di manutenzione, gli imprevisti e anche le morosità o le spese di assicurazione, lei arriva tranquillamente alla redditività zero, di cui, ripeto, non parla la Confedilizia che rappresenta i proprietari di casa, ma parla un esponente dell'opposizione. Ci scrive un ascoltatore, Luciano da Bergamo, dice: questa cedolare è l'ennesimo condono. In realtà, se non sbaglio, in questo decreto legislativo, che probabilmente andrà ancora definito nel suo complesso, viene previsto che le posizioni vanno regolarizzate entro il 2010, altrimenti si incorre in sanzioni molto pesanti. Se viene beccato il proprietario che affitta in nero, mettiamola così, viene ridotto automaticamente il canone, in sostanza mi pare il triplo del valore catastale, se non erro, mi corregga se sbaglio, Presidente, ma soprattutto non è che viene annullato il pregresso, no? No, certamente c'è un effetto di questo genere ed è inutile negarlo. D'altra parte la politica deve avere, soprattutto quando lo Stato è in bolletta, deve avere anche dei traguardi realistici. Non si può partire da schemi giustizialisti che peraltro impediscono il raggiungimento degli scopi sociali. Lo scopo sociale non è tanto l'emersione del nero a favore delle entrate tributarie dello Stato, quanto l'allargamento del mercato degli affitti. Lo scopo principale della cedolare secca è riaprire il mercato della locazione per dare affitti, case in locazione a chi ha bisogno di spostarsi sul territorio, e quindi assicurando la mobilità delle forze del lavoro, degli studenti universitari, degli impiegati pubblici. Si spendono soldi per la costruzione di case popolari che poi finiscono in mano non agli aventi titolo, ma piuttosto agli occupanti abusivi e ai prepotenti, e non si erano finora trovati, questo va riconosciuto, per aprire invece il mercato della locazione, per fare in modo che i proprietari tornino ad avere una minima redditività per investire nel mattone a scopo di locazione. Se poi i comuni, invece di considerare seconde case e tassarle adeguatamente, invece di considerare, dicevo, seconde case, le case per la locazione, le considerassero per quello che sono, cioè un investimento puro e semplice che può favorire le classi sociali meno agiate, e questo sarebbe naturalmente un altro toccasana, ma purtroppo dai comuni i segnali in questo senso finora non si sono avuti. Lei diceva lo scopo principale non è questa lotta al nero. E però, sempre su questo tema della cedolare secca, sempre intervenuto questa mattina ai nostri microfoni, Daniele Barbieri, sempre che è il segretario nazionale del SUNIA, dice che secondo lui, insomma, appunto per combattere l'evasione, il nero nel mercato degli affitti, bisogna fare altro. Ascoltiamo. In assenza di un mercato regolare è naturale che l'inquilino in qualche modo tende a subire ricatti o ricattini che vengono da parte della proprietà, compreso anche il contratto in nero. Se si aggiunge poi il fatto che non c'è alcun vantaggio fiscale per l'inquilino a denunciare l'assenza di contratto o un contratto irregolare, naturalmente questo si aggiunge problema a problema, e quindi è assolutamente difficile per l'inquilino trovare il coraggio per denunciare situazioni anomale, anche se naturalmente noi facciamo del tutto perché questo avvenga. Per esempio, chi compra una casa, la prima abitazione, contraendo un mutuo, ha la possibilità di detrarsi una parte del mutuo pagato dal reddito, cosa che non è possibile per gli affitti. Perché non pensare, non introdurre la possibilità per l'inquilino di detrarsi l'affitto che viene pagato in parte o in tutto dal reddito dichiarato? Questo, oltre a portare un indubbio vantaggio economico all'inquilino, creerebbe un conflitto di interessi sano con la proprietà che potrebbe contribuire a portare allo scoperto i contratti in nero. E andiamo a chiudere proprio così. Le chiedo, Presidente Sforza Fogliani, una valutazione proprio su questo. Insomma, la questione mi sembra interessante, questa creazione di conflitto di interessi virtuoso tra proprietà e inquilini. Su questo non abbiamo nulla in contrario a che si instauri, anzi potrebbe essere auspicato anche da noi, perché in sostanza il nero fa concorrenza alle locazioni regolari e noi intendiamo tutelare come tuteliamo le locazioni regolari, però bisogna anche vedere se l'erario ha le disponibilità per fare questo, e quindi il discorso torna al Ministero dell'Economia. La verità l'ha detta forse senza volerlo Barbieri all'inizio della sua dichiarazione: non c'è mercato, bisogna prima di tutto ricreare il mercato, e questa cedolare secca aveva e dovrebbe avere questo scopo, anche se è uscita fuori in un modo del tutto diverso da quanto ci si aspettava, non tanto per l'aliquota che in sostanza si è stati in grado di ricondurre al 20% da quel beffardo 25% che era stato ipotizzato in un primo momento, ma soprattutto per la base imponibile. Noi oggi in Italia, cosa che nessuno ha ancora detto, noi abbiamo due cedolari: la cedolare che è stata fatta l'anno scorso esclusivamente per la provincia dell'Aquila, sì, la provincia dell'Aquila, che si calcola con l'aliquota del 20%, si calcola peraltro sulla base imponibile fiscalmente calcolata, e quindi con le detrazioni sia per i contratti calmierati che per i contratti liberi, con le detrazioni previste dalle leggi in vigore. E invece ieri è stata approvata un'altra cedolare, per cui non è che l'abbiamo adesso, come ho detto prima. Dal 1 gennaio, se le cose non cambiassero, avremo due cedolari, una su una base imponibile e una su un'altra, cioè quella approvata ieri, sul canone effettivo. È proprio questo che contrasta un po' con quello che noi ci si calcolava, anche per questioni di opportunità e questioni di semplificazione. Però è certo che anche questa cedolare, pure non in misura così di riguardo come poteva essere se fosse stata fatta sulla stessa base imponibile che è stata stabilita per legge per l'Aquila, ma comunque ugualmente degli effetti benefici li apporterà, e finalmente si è fatto qualcosa su questo piano che noi rivendichiamo da anni ed anni, e finora tutti l'avevano messa nei programmi ma nessuno l'aveva fatta. Presidente, se veramente la redditività fosse zero, tutte le case del paese dovrebbero essere sfitte, insomma qualcosina ci guadagnerete pure. No, un conto è ricavare almeno le spese per pagare le tasse, e questa è la ragione per cui si affitta anche a redditività zero. È logico che la redditività zero presuppone il pagamento delle tasse, quindi questo quantomeno si riesce a farlo, però per il resto non rimane in tasca niente. Bene, chiarissimo Presidente per questa risposta, anche se immagino che qualche dubbio dei nostri ascoltatori rimarrà, almeno a giudicare dai messaggi. Grazie a Corrado Sforza Fogliani, Presidente di Confedilizia, per essere stato con noi. Buonasera. Bene, questo il quadro per quanto riguarda la cedolare secca, almeno per oggi. Sicuramente nelle prossime settimane avremo modo forse di tornarci, e sicuramente poi a settembre, quando le cose si definiranno un pochino di più, è il momento della borsa. Paolo Paronetto, Radio Coro Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, borse complessivamente in calo, soprattutto l'America e soprattutto l'Italia. Come mai Milano così male oggi anche rispetto alle altre piazze finanziarie europee? Sì, Milano ha chiuso decisamente con il peggior risultato tra le principali borse europee. A penalizzare gli listini milanesi sono state soprattutto la nuova flessione di Unicredit, che ha perso per la terza seduta consecutiva, oggi il calo è stato dell'1,89%, e quella di un'altra big come Telecom Italia, che dopo l'annuncio dei dati semestrali e dell'accordo in Argentina che permetterà al gruppo di TLC di non vendere le proprie asset argentine, quindi di rimanere nel paese sudamericano, ha perso oltre il 4%. Spiegacela, Paolo, spiegacela un pochino questa cosa di Telecom, perché anche gli ascoltatori se lo chiedono via SMS al 349-238-6666. Insomma, utile netto del semestre più 26% a 1,2 miliardi. Indebitamento netto in calo a 33 miliardi e mezzo. Bernabé che dice un aumento prudente dei dividendi potrebbe essere sostenuto. Eppure la botta è forte, meno 4,29%. Come mai? Certo, le prime reazioni a caldo, il titolo, la società ha diffuso i conti soltanto poche ore fa, parlano di risultati di bilancio che sono stati in linea con le attese, l'utile netto è un po' sopra la media del consensus, ma in linea generale i risultati sono in linea con le attese, e dalle parole dell'amministratore delegato, come quelle che ricordavi tu, non ci sono state grosse novità, sono cose che il management di Telecom aveva già sostenuto in passato, e quindi quello che ha pesato è il fatto che il mercato si sta un po' interrogando su questa evoluzione della partita in Argentina. Molti analisti, molte banche d'affari mettevano in conto una vendita degli asset argentini tra le mosse della società per poter ridurre il proprio debito, ovviamente con gli incassi di una possibile vendita adesso, e quindi prima di poter valutare bene quali possono essere le prospettive a lungo termine di rimanere in Argentina, quello che pesa è appunto la mancanza di questo incasso previsto. Questo per quanto riguarda Telecom, quindi sempre nel mirino per le questioni sudamericane, insomma, prima il Brasile e poi l'Argentina. Titolo peggiore sul FTSE MIB, Tenaris, il calo del 5,05%, utile del trimestre a 282 milioni di dollari, in calo del 18%, ricavi giù del 5%, e qua è chiaro, i conti al mercato evidentemente non sono piaciuti. E poi ci sono due gruppi assicurativi che hanno diffuso i conti, ossia Fondiaria Sai e Generali, e anche questi al mercato, a quanto sembra, non sono piaciuti un granché. Sì, esattamente, la giornata anche oggi è stata all'insegna dei conti semestrali. A dire la verità, per Generali non ci sono state grosse sorprese, i risultati sono stati in linea con le attese, il titolo ha chiuso in lieve calo, un meno 0,25%, altro discorso per Fondiaria Sai, che ha chiuso il semestre in perdita e in borsa ha ceduto oggi l'1,15%, e soprattutto per la controllata Milano Assicurazioni, che è stato il peggior titolo dell'intero listino, ha perso il 7,1%, Milano Assicurazioni ha chiuso il semestre con una perdita di ben 195 milioni a fronte di un utile di oltre 50 milioni nello stesso periodo del 2009, mentre per quanto riguarda Fondiaria Sai, la perdita semestrale è stata di 157 milioni contro un utile di 32 un anno prima. Questo appunto per quanto riguarda i due gruppi assicurativi di cui si diceva. Per quanto riguarda Pirelli invece un più 2,84%, veniamo alle note positive, il titolo migliore sul FTSE MIB, motivi? Sì, per Pirelli si segnala che continua una tendenza avviata in seguito alla pubblicazione della semestrale e ai successivi giudizi positivi delle banche d'affari. Oggi inoltre il titolo ha reagito all'andamento della concorrente finlandese Nokian Tyres, che ha diffuso conti semestrali migliori delle attese e soprattutto ha rivisto al rialzo le stime sull'intero esercizio, gettando ottimismo sull'andamento del mercato degli pneumatici. Pirelli è così salita del 2,84%, come ricordavi tu, la migliore prestazione tra le blue chip milanesi. Benissimo, per quanto riguarda Fiat anche qua bene, un più 2,08%, c'è anche attesa per i conti di Chrysler di lunedì che sono previsti positivi. Io ringrazio Paolo Paronetto di Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera Paolo. Buonasera a tutti. E vi diamo un quadro finale di giornata. Tra i positivi troviamo anche Geox, un guadagno del 2,14%, dell'1,12% Buzzi Unicem, Atlantia dello 0,98%, in pregiro dello 0,84%, bene il Monte dei Paschi di poco più di mezzo punto percentuale, anzi di quasi lo 0,60%, Terna dello 0,47%, XOR dello 0,45%, su A2A ed Eni e Banco Popolare di circa lo 0,3%, dello 0,25% Sale Italcementi, dello 0,16% Settimacro Electronics e dello 0,12% la Popolare di Milano. Perfetto pareggio per Bulgari, Enel, Snam Rete Gas, Prismian giù dello 0,08%, Mediobanca dello 0,14%, dello 0,25% Generali e Mediaset, Finmeccanica scende lo 0,35%, perdono lo 0,4% Luxottica e Lottomatica, lo 0,6% Parmalat e CIR, UbiBanca lo 0,7%, Azimut lo 0,8%, quasi un punto percentuale di calo per Autogrill, oltre un punto per Unipol e Fondiaria, Intesa giù dell'1,34%, Saipem dell'1,72%, Campari dell'1,83%, Unicredit si diceva di quasi due punti percentuali dell'1,89%, Ansaldo del 2,13%, Mediolanum del 2,14%, di Telecom Italia e Tenaris si è detto, euro che quota a 1,3149 contro dollaro. Veniamo dunque al tema della politica monetaria. Oddio, più che politica monetaria, in questo caso le dichiarazioni del Presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. Perché non la politica monetaria? Perché in realtà la BCE ha lasciato invariato all'1% il tasso di riferimento principale in Eurolandia, esattamente come era nelle attese degli analisti, e dice i tassi adeguati. La ripresa va meglio del previsto. Ci sono state parole ottime da parte di Trichet per quanto appunto riguarda la crescita economica in Eurolandia. Nel secondo trimestre sarà il secondo semestre sarà meno forte del secondo trimestre 2010, secondo trimestre che ci aspettiamo dia risultati molto lusinghieri, dice Trichet. E ancora, risultati davvero eccezionali e molto buoni, e anche il terzo trimestre sarà migliore di quanto previsto. In apparente contraddizione, però, dice, non dichiariamo vittoria, siamo cauti. We had good indication both the second quarter and probably the third quarter. Abbiamo ricevuto indicazioni molto positive riguardo al secondo trimestre e probabilmente anche nel terzo trimestre la crescita sarà migliore del previsto. Certamente però non stiamo cantando vittoria per quanto riguarda la ripresa economica, perché permane ancora incertezza e la crescita rimane disomogenea. Siamo in una situazione in cui è chiaro che probabilmente il secondo semestre sarà meno forte rispetto al secondo trimestre 2010, che ci aspettiamo dia risultati molto lusinghieri. Rimango prudente, anche se in base alle ultime informazioni disponibili, il quadro generale risulta migliore delle attese. Se ricordate bene, dopo la drammatica caduta dell'economia lo scorso anno, quando si è visto un primo rimbalzo, non abbiamo cantato vittoria. E abbiamo fatto bene alla luce dei dati dell'ultimo trimestre 2009 e del primo del 2010. Quindi direi buone notizie, ma rimaniamo prudenti e cauti. Aggiunge Trichet che appunto un'ipotesi di nuova recessione del tutto esclusa, e poi dice tutte le misure non standard adottate dalla Banca Centrale Europea per sostenere i mercati creditizi restano provvisorie. Infine ecco il giudizio sugli stress test. We welcome the EU-wide stress testing exercise. Abbiamo accolto con favore i risultati degli stress test che hanno rappresentato una verifica rigorosa e completa. I risultati degli stress test hanno confermato la tenuta dei sistemi bancari europei e dell'area euro nei confronti di gravi shock finanziari ed economici. Gli stress test hanno anche contribuito ad aumentare significativamente il livello di trasparenza circa le attuali condizioni del sistema finanziario e sui rischi a cui le 91 banche che hanno partecipato ai test sono esposte. Ciò detto, gli stress test hanno rappresentato un importante passo in avanti per ristabilire la fiducia nei mercati. Hence, the exercise represents an important step forward in restoring market confidence. Questo dunque per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, le dichiarazioni di oggi di Jean-Claude Trichet, come avete sentito, prima molto ottimista, ma poi molto cauto. E veniamo all'ultimo argomento di questa giornata, ossia la vicenda Tirrenia. Il no di Fintecna ieri all'offerta di Mediterranea Holding per Tirrenia e la controllata siciliana Siremar. La decisione della finanziera di Stato, che è il 100% del gruppo di navigazione, è arrivata ieri sera nel giorno nel quale era prevista la sottoscrizione del contratto. Saluto il collega Raul De Forcade del Sole 24 Ore, che sta seguendo tutta la vicenda Tirrenia e che inizia ad essere abbastanza paradossale a questo punto, perché Raul, se non sbagliamo, giusto ieri la Camera, prima di andare al voto sulla famosa mozione di sfiducia contro il sottosegretario Caliendo, si era occupata proprio di questo, aveva votato, approvato definitivamente il decreto per la privatizzazione di Tirrenia, no? È andata così, aveva approvato il decreto di privatizzazione di Tirrenia e che contestualmente indicava anche un amministratore unico, una sorta di commissario con poteri molto forti, diciamo, per Tirrenia, e metteva fuori gioco definitivamente la figura di Pecorini, l'uomo che ha regnato su Tirrenia per 26 anni, ecco, per un tempo veramente lunghissimo. Tra l'altro, giusto per darvi un'idea, se non erro il debito è intorno ai 650 milioni di euro, Raul. Esatto, 657 milioni il debito, l'ha conteggiato la Corte dei Conti proprio in questi giorni. Ecco. Sì, e negli ultimi 25 anni, e quindi proprio nel periodo di questa gestione, Tirrenia ha bruciato qualcosa come 6 miliardi e mezzo di euro di sovvenzioni pubbliche. Correggici anche se sbagliamo su questi fronti. No, sì, più o meno le cifre sono quelle, ecco, non sempre quantificabili con esattezza, perché spesso appunto i conti di Tirrenia sono stati un po', diciamo, giocati fra Tirrenia e le sue controllate, quindi non è sempre facilissimo poi arrivare a un conteggio definitivo. In una vicenda, come qualcuno fa notare, che inizia a ricordare abbastanza quella all'Italia, ci sono varie dichiarazioni anche nella giornata di oggi. Al di là delle richieste di incontri col governo, c'è per esempio il segretario generale della UIL Trasporti, Giuseppe Caronia, che dice: da alcune indiscrezioni non ancora confermate sembrerebbe che Fintecna stia predisponendo l'invio dei libri in tribunale per ricorrere all'amministrazione straordinaria, e poi si potrebbe arrivare allo spezzatino del gruppo Tirrenia. Allora iniziamo a fare qualche ipotesi concreta, Raul. Sembra un'ipotesi probabile questa? Sì, io stesso oggi sul giornale ho scritto questa cosa, perché ci sono delle tracce, diciamo, di questa possibilità. Ci sono state anche ieri, proprio nell'iter, diciamo, del normativo, nell'iter parlamentare di ieri, il Consiglio dei Ministri si è riunito. Oltre, da una parte è stato approvato il DL di cui si parlava alla Camera, che era già stato varato dal Consiglio dei Ministri e ha avuto il placet della Camera. Dall'altro lato il Consiglio dei Ministri in fretta e furia ha dovuto varare alcune norme con un altro decreto speciale per Tirrenia, proprio in vista di una possibile procedura di amministrazione controllata di Tirrenia, immettendo risorse attraverso leggi del passato nella società, insomma, dando la possibilità alla società, ad esempio, di usufruire di fondi che erano nel decreto Ronchi, che era stato quello che anche aveva dettato, diciamo, le tappe della privatizzazione. Le linee guida di questa privatizzazione. Facciamo un passo indietro, Raul, perché che cosa è successo? È stata indetta questa gara, si sono presentati in 16, alla fine ne è rimasta solo una, questa Mediterranea, Mediterranea Holding, che... una compagine particolare, Esatto, è una compagine particolare. Perché? Perché il primo azionista è la Regione Sicilia. Esatto, con il 37% delle azioni la Regione Sicilia è, diciamo, l'azionista con più quote di questa società, a cui peraltro partecipano però anche privati. Ci sono appunto il gruppo Tomasos TT Lines, che è un gruppo appunto che agisce nel settore dei traghetti, e questo ha il 30,5%. Poi c'è Salvatore Lauro, anche lui Ali Lauro, sempre l'ex presidente di Confitarma Nicola Coccia, con una quota adesso minore, la famiglia Busi Ferruzzi. Insomma, ci sono imprenditori e armatori. Oltre alla Sicilia ci sono imprenditori e armatori. Molto brevemente, Raul, perché abbiamo ancora un minuto, ci spieghi come mai alla fine questa Mediterranea Holding non ha firmato il contratto, unico soggetto rimasto in gara? Insomma, la Regione Sicilia dice l'annullamento della gara è incomprensibile. Che cosa è successo tecnicamente ieri? Almeno questo è quello che sostiene Mediterranea, perché poi le notizie sono molto vaghe da Fintecna, ecco, anzi direi quasi nulle. Mediterranea era pronta a firmare un contratto che però prevedesse una rescissione, diciamo, dell'assegnazione nel caso le banche, le 53 banche creditrici di Tirrenia non confermassero le linee di credito che sono attualmente attive per la società. Invece pare che Fintecna all'ultimo momento abbia presentato un contratto, questo almeno è quello che sostiene Mediterranea, un contratto che non prevedeva questa rescissione. Questo ha bloccato soprattutto la Regione Sicilia, che essendo un ente pubblico chiaramente, e questo era un po' anche il paradosso della privatizzazione, un'azienda pubblica che va a una società appunto dove c'è una forte presenza pubblica, ecco, questo ha fermato soprattutto la Regione Sicilia, che ha chiesto un rinvio. E questo è dal rinvio, naturalmente si è bloccata la gara e vedremo quello che cosa succederà. Ringrazio Raul De Forcade, collega del Sole 24 Ore, per averci aiutato a capire. Buonasera Raul. Grazie a voi, buonasera. Un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione. Si sente.